Sinten. È bella dalla sole Non basta, Thank you. comparigli e libre, vi saluto ridendo. Ta, Musetta venissi e il cuore non batte, ma non lo sento. Grazie venuto che il copre. C'è gusto da bene, c'è gusto da bene. Ti rodi e ridi. Non batte? No. Bene. Vista. Oh, guarda! Per in carrozza vestita come una regina. Evviva, ne son contento! Un giardino si strugge d'amore. Lavoriamo! Lavoriamo! Che penna infame! Thank you. spazio. Offretta, erba secca, qualche dramma, qualche mistero, qualche mistero, qualche mistero. Il re mi chiama, il mistero. Però vedrò, vedrò, chi so. Orgi mi nappo, peni io fatto. Mi sia permesso al nobile consesso. Mi ispiro irresistibile, destro dell'arma. Azione coreografica allora. Sì, sì, sì. Danza con musica vocale si scombrino le sale. Capotto, minuetto, amarella, fandango. Propongo la quadriglia. Ma dalle dame! L'ho detto! Lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla. Pezzosa damigetta, rispetti la modestia, la prego! Lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, lalla, bestia! Ma di dalla che? Ferro che erro che io attaccio! Studi il ferro! Non ti assaggia! Il tuo sanguio voglio è! Un diretto mi si spiegherà! Ma questa dura paella! Ma questa cucina! Vedi quando la pensione gira e quando arriva male! Thank you. Maria. La mezz'ora è morta. Quanto freddo. Avessi manicato. Oh, ragioni. È ver, oh via. Oh, sei venire. riposa. Ho venuto il dottore, verrà, gli ho fatto fretta, ecco il cordial. 听众朋友，今天的歌舞剧场就到这里了，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道接下来的精彩节目。 Just Pablo! Regna! Pablo! Detto vizio di una vera di questi incesti la volta di Francia per voi non sclancia Caracca, caraccata! Sul mezzo di Milano Sei sordo, sei lì con questo motivo Luigi Filippo, mentre non mi ha messo Luigi Filippo, è lo spiegare Or vi dirò quest'oro o meglio argento alla sua grande storia il cammino freddo sul petto un inglese un signor di nuovo di armi sia volevo di cesto via e mariano di nuovo e vi presento macette di domando ricco dolce a quando le lezioni Mi presento, ma c'è te li domando, ma quando le lezioni risponde in ciao biccia. Ti guardare, io ho pagato, ma di arrivo piano. Forse giugge, poi suonate, picchia quello, ma vive, da fermo di non sbagliare. Allora, intanto, di mia presenza bella, ma quando le bella. Occhi non calma, se pensi che sono l'ora Lo rito all'argolani, lo rito all'argolani Lo rito il becco aprì Un poco di prezzemolo da Socrate morì Chi? Che il diavolo vi porti tutti quanti Ed or che fate? No! Queste civarie sono la salmeria quei di futuri tenebrosi oscuri pranzare in casa il dì della vigilia mentre quartier latino le sue vie addobba di salsicce Quando l'orezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade ma le ragazze cantano contente la vicina di Roma e con la studente Beve in casa, ma si pranzi Grazie. alma viva un corpo in peccato d'amore. Io! Alma viva, la casera da un corpo. Neve! Riccore! Seduttore! Riccore! Una quercia, un canno! Nuovo gusto! E fulmo nei gondola l'arzillo e tempo ruto son vecchio narra buono l'arzillo e tempo ruto non c'è tutti quei giorni ora mi ripago si sa il mio sbaglio ma di diritto ne allegra un po' la piena ma magra proprio magra no, poi no le donne magre son grattacapi e spesso sopra capi e son piene di doglie per esempio mia moglie trimestre al quartiere latin ci attende un novizio prima chi spende dividiamo il bottino dividiamo là ci son bel cosce scese dal cielo perché si ricompata la decenza or sarà via il farò la conoscenza la prima volta un farmi consore e dopo mi arrivi con un'altra già un rasoio andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo io resto per terminare l'articolo di fondo del pastore a presto cinque minuti conosco il mestiere lo spetterei un capasso del portiere parli un dry che coro cinque minuti taglia corta la coda al tuo castor adagio accidenti! Polline, sei morto! Non ancora, presto! Non sono in vena. Chi è là? Una donna. Non respira, non respira. E ora come faccio? Così. E viso d'ammalata. Si sente meglio? Sì. Dice tanto freddo, sedda vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco a poco. Così.